Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. In caso di crisi non resta che ridere. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Essere e avere oggi raccoglie il consiglio che ci arriva da uno spettacolo teatrale che vede protagonista un'attrice nota anche al pubblico televisivo. Scoprirete tra poco di chi si tratta. Uno spettacolo che ci aiuta a riflettere sulle nuove abitudini di consumo, ma non solo, dettate dalla crisi. Parliamo anche di promozioni e raccolte punti, raccontandovi due dei fenomeni che hanno generato baratto dei bollini e code ai distributori. E poi impazza il Do It Yourself, arriva in TV una trasmissione dedicata all'upcycling nel mondo moda, una trasmissione che ci insegna come diventare rifashioniste. Sul fronte tecnologico della tendenza, invece, la maker mania trova la sua notizia simbolo nell'auto fai da te, che arriva direttamente a casa con 4 scatole di montaggio. Last but not least, secondo appuntamento infine con l'Italian Factor. La borsa della spesa. 3 litri 30 centesimi, basta col solito bianco smagliante. Da oggi con Grigetto le macchie non vanno più via, si confondono. Grigetto è il detersivo al passo coi tempi che corriamo, cioè in caso di crisi. È uscita una nuova linea di biscotti, le briciole. Eccoli i consigli per gli acquisti di Francesca Reggiani nel nuovo spettacolo in scena dal 24 ottobre al Teatro Ambra Iovinelli di Roma. L'attrice propone il suo personale vademecum per il nuovo stile di vita discount. 50 sfumature di Francesca racconta le tante facce della crisi attraverso le nuove abitudini di consumo ma anche di vita dettate dall'austerità, all'insegna di un motto quanto mai attuale, ci ha detto Francesca, non ci resta che ridere. Io già da un po' ho scritto dei pezzi su questa abitudine ai discount, per cui anche le signore dei Parioli, uno dei quartieri più ricchi, virgolette, di Roma, dai negozi si sono spostate a cercare mercati, mercatini, vintage, discount. Le persone normalmente adesso comprano tutto a 3 euro, a 5 euro. Quindi si dà così il benvenuto in questo mondo dei discount. La gente cerca il metà prezzo e anche di più, e ci sono anche dei consigli, dai detersivi ai biscotti, al modo di lavarsi i capelli. È ovvio che insomma cerco di, con un minimo di pensiero, fare un po' di satira. In questo scenario fatto di austerità, contrazione dei consumi e caccia allo sconto anche i discount, il boom si sta ridimensionando, sono entrati nella guerra delle promozioni scatenata dalla grande distribuzione. Non più solo prodotti a prezzi dimezzati ma anche concorsi, dai premi modello lotteria. Eurospin regala la casa dei sogni, questo il claim. Lidl, solo per citarne alcuni, la spesa gratis per 20 anni. 2000 giocate ogni giorno, ci fa sapere Lidl. 18.000 dall'inizio del concorso che si chiuderà il 27 ottobre. E c'è anche chi fra i consumatori arriva a barattare, offrire, addirittura comprare online i bollini delle raccolte punti. È un fenomeno che ci segnala il sito di annunci gratuiti Kijiji, dove sono comparse inserzioni del tipo «Cerco entro il 30 ottobre 30 bollini della tal raccolta, ritiro anche a casa, ecco la lista degli oggetti che scambio, oppure pago tot centesimi a bollino». Gioia Manetti, country manager di Kijiji. Il fenomeno è nato non molto tempo fa e adesso ha già preso molto piede, nel senso che il numero di annunci di questo tipo sul nostro sito sta crescendo. E si va dalla persona che appunto per ragioni di tipo economico ricerca i bollini per completare la propria raccolta e avere magari la possibilità di ritirare i premi di interesse a cifre vantaggiose, al collezionista che cerca invece le raccolte punti, diciamo vintage, di qualche anno fa. Ci sono anche le famose raccolte punti degli anni 80 e 90 che vedevano le persone molto prese, diciamo, dal completare la raccolta. Principalmente però si tratta di scambio o compravendita di bollini legati alle raccolte attuali, e che quindi vede questo tema molto legato appunto anche a tematiche di volontà di risparmio economico, diciamo, e di ottimizzazione delle risorse familiari. E a proposito di promozioni e bollini, a fare notizia in questi giorni sono le code di auto ai distributori Kuwait per la fine della campagna Esselunga che offriva i buoni benzina da 10 euro. Nel mondo della grande distribuzione, nei supermercati, lo ricordiamo, ormai un prodotto su quattro è in promozione, iniziano a farsi sentire le voci critiche sulla guerra dei prezzi. Sentiamo l'opinione di Francesco Pugliese, direttore generale di Conad, e poi di Massimiliano Dona, segretario dell'Unione Nazionale Consumatori. Le abbiamo raccolte a margine della settima edizione del Consumer and Retail Summit del Sole 24 Ore. Le promozioni oramai erano nate per attirare consumatori e farli spendere di più. In un momento come questo, quel tipo di meccanismo ha in effetti innescato una spirale che è viziosa. Le industrie vendono a prezzi più cari, non c'è più un valore del listino che è reale, e correggono il posizionamento di listino attraverso promozioni, però facendo una cosa sbagliatissima, che è quella di vendere prodotti solo quando sono in promozione. E questo danneggia i margini di tutti e non fa capire più nulla a nessuno. Chi l'ha capito molto bene sono i clienti, che alla fine sanno benissimo che in qualsiasi momento dell'anno, in qualsiasi punto di vendita, basta scegliere i prodotti che sono in promozione e si può fare risparmio. Se da un lato i consumi sono sicuramente in contrazione, dall'altra parte aumentano le esigenze dei consumatori. Questi vorrebbero più qualità, più assistenza, in particolare sul punto vendita. Talvolta si entra in un centro della grande distribuzione, non si è assistiti, non si è accolti. In molti ci segnalano, soprattutto sul versante dell'elettronica di consumo, di dover comprare elettrodomestici che costano molto, anche da un punto di vista psicologico, e di non essere assistiti sul punto vendita, di non essere informati. Ecco, forse è il momento per le imprese socialmente responsabili di fare un investimento in questo senso, rispondere alla crisi con ancora più impegno verso i consumatori. Il rischio di valicare la soglia della legalità con pratiche aggressive è dietro l'angolo. I consumatori talvolta a loro volta sono inconsapevoli, comprano il 3x2 e poi si accorgono di non poter neppure consumare quel vasetto di yogurt perché è in prossimità della scadenza. Ecco, va fatto un serio investimento sulla cultura sia di chi vende sia di chi compra. Nei supermercati americani invece, a proposito di chi punta sul servizio, è arrivato il grocery concierge. Ci aiuta a fare la spesa e ci organizza la cena. Codice a barre di Cristina Lazzati. Quanto ci piacerebbe se, entrando in un supermercato, trovassimo ad accoglierci un pasciuto chef che, tablet alla mano, ci consigliasse su come e dove dirigere le nostre decisioni di acquisto? Si chiama Grocery Concierge ed è l'ultimo trend nel mondo del retail alimentare, soprattutto per i negozi vicinato che vogliono distinguersi e riconquistare il ruolo di amici del cliente. Il nostro chef, ascoltate le esigenze del cliente, cena last minute per 8 persone, problemi di intolleranza e voglia di pesce, consiglierà ricette, stamperà liste della spesa e indicherà percorsi facilitati per concludere lo shopping nei tempi desiderati. Una buona idea, ma per pochi non c'è problema. C'è chi, come Whole Foods, ha sviluppato gli stessi servizi in una app che, per l'appunto, consiglia ricette, assiste nella lista della spesa e seleziona per il consumatore alimenti speciali. Ma c'è di più, proprio per andare incontro al rinnovato interesse del cliente per la tavola, Whole Foods ha aperto un vero e proprio reparto chiamato Cooking, dove si alternano dimostrazioni e corsi on the spot e si possono trovare ingredienti e suppellettili per aspiranti chef. Una risposta positiva alla crisi, dove il ritorno a casa è segnato non dalla rinuncia al ristorante, ma dal piacere di sperimentare e giocare con ingredienti e ricette abbordabili e a prezzi contenuti. Oh mamma, sono così magra e pallida. E non ho vestiti. Va su in soffitta e portami giù la mia scatola di modelli. Che cosa fare con dente di Miss Elena? Mi devi fare un vestito nuovo? Non con le dente di Miss Elena, vinghezzare qua io. Non fare la stupida, ora sono diventate mie. Devo andare ad Atlanta a cercare quei $300 e devo sembrare una gran dama. Siete pronte come Rossella O'Hara in Via col Vento a trasformare i vostri abiti e a stravolgere le regole della moda? Questa è la promessa di Refashion, la nuova serie in onda su Real Time dal prossimo 21 ottobre, serie che cavalca la tendenza del do it yourself, in pratica una serie di tutorial per imparare a cucire e a realizzare a casa i propri look. Do it yourself è il mio motto per la vita, ci ha confidato la protagonista Alessandra Impalli. Insegnerò alle ragazze che mi verranno a trovare come trasformare, ma soprattutto rivoluzionare il proprio guardaroba, nel senso che un pantalone può diventare una cappa, una giacca, un gilet, qualsiasi cosa. Si diventa rifashioniste e quindi si impara a rifashionare, a trasformare qualcosa che inizialmente aveva un altro utilizzo in qualcos'altro, dandogli un nuovo smalto. Ciao, sono Alessandra e questo è il mio atelier. Ciao Alessandra, parlaci delle tue passioni. Mi piace dare nuova vita ai vecchi abiti. Di cosa ti occupi? Sono fashion designer, costumista e insegnante di moda. Leggo sul tuo curriculum corsi di sartoria sovversiva. Di che cosa? Dobbiamo spaventarci? Di che cosa si tratta? A me piace moltissimo definirli così i miei corsi, perché io faccio sempre una precisazione: io non sono una sarta, non nasco come sarta, nasco come fashion designer, quindi avendo la necessità di vedere immediatamente realizzato quello che ho in mente, mi sono inventata un metodo, quindi sono autodidatta, e quello che è successo è che inventandomi questo metodo che ho utilizzato per me, ho poi incominciato a insegnare nelle scuole e ho scoperto che questo metodo poteva essere molto, molto piacevole, soprattutto da un punto di vista, da un approccio più ludico. Credo che la storia sia fatta di cicli, no? E così anche per la moda, e sicuramente in questo momento ci sia una riscoperta della manualità, forse perché arriviamo da anni di industrializzazione, quindi è sicuramente il momento del do it yourself, che tra l'altro è proprio il mio motto nella mia vita quotidiana tutti i giorni, perché finché le cose, secondo me, finché non si fanno con le mani, non le si capiscono fino in fondo, non le si assaporano fino in fondo. Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere Avere, abbiamo chiuso la prima parte parlando di do it yourself nel mondo moda in versione upcycling, che significa in pratica dare nuova vita alle cose vecchie. Quando il fai da te incontra la tecnologia, nascono i maker e nuovi scenari per il mondo dei consumi. Questo è lo spunto del focus sui trend di questa settimana. Focus sui trend. È stata presentata qualche giorno fa alla Maker Fair di Roma, è la prima auto fai da te. Il kit arriva direttamente a casa con 4 scatole di montaggio. È un progetto italiano, open source, nel senso che ognuno può contribuire a migliorarlo. Una notizia simbolo, a nostro avviso, dei nuovi confini, tutti da esplorare, del do it yourself e dei nuovi scenari di consumo, di rapporto tra produzione e consumo che la tecnologia sta aprendo. Ne parliamo come sempre con un esperto, Paolo Ferrarini, ricercatore di Future Concept Lab. Paolo, benvenuto ad Essere Avere. Grazie, buongiorno. Allora, si tratta di sicuramente una notizia molto, molto bella, molto interessante, che esprime sicuramente un fenomeno in grande sviluppo, che è quello proprio del making, dei makers. Si tratta di un fenomeno che sicuramente è in grandissima espansione, in grandissima diffusione, che però è ancora molto giovane, molto acerbo, per cui non sappiamo benissimo in che direzione sta andando. Però alcune cose sono già chiare. Allora, c'è la possibilità di fare qualsiasi cosa, lo dimostra il fatto che insomma ci sia un kit per farsi l'automobile in casa. Il fenomeno, diciamo, un pochino più diffuso è quello delle stampanti 3D, che ci permettono di realizzare piccoli oggetti, ci permettono di realizzare, che so, pezzi di ricambio per la lavatrice, ad esempio. Quindi questo sicuramente è uno degli utilizzi che hanno la possibilità di diffondersi a livello di massa. Molti di questi fenomeni saranno largamente diffusi però per delle nicchie, per dei gruppi di persone molto appassionate di determinate cose, che potranno realizzare i loro oggetti, appunto, dal piccolo oggetto fino all'automobile in casa. Diciamo che per immaginare il futuro, un futuro possibile almeno, delle stampanti 3D, dobbiamo pensare a quello che è successo con l'arrivo delle stampanti domestiche a qualità fotografica, per cui avremo delle macchine domestiche che ci permetteranno di stampare cose rapide che magari ci servono, però ci rivolgeremo a servizi esterni per la stampa di cose complesse. Un altro elemento importante per la stampa 3D, che ancora non è molto chiaro, è ad esempio la qualità della stampa, che può essere sia a livello di definizione, ma c'è anche la qualità del materiale, plastiche, polimeri per le stampanti 3D, che sono estremamente costosi, che però ci permettono di ottenere degli oggetti che sembrano torniti a mano, ad esempio. Quindi anche lì ci sono diversi livelli di qualità, come succede anche nell'artigianato, se vogliamo. Questo è un concetto di artigianato che unisce in maniera molto interessante hardware e software, che come dire, possibilità di modelli di business ne ha tantissime. Potrà arrivare fino al retail questa cosa? Sicuramente sì, pensiamo a quello che succede ad esempio nelle catene sportive, non so, cito Adidas, Nike, eccetera, che personalizzano le scarpe in loco, nel negozio, con delle macchine da cucire dedicate, che scrivono ad esempio il tuo nome o la frase che vuoi sopra la scarpa che hai appena acquistato. Perché non immaginare un complemento per un oggetto che compriamo? Può essere un oggetto di moda, può essere un oggetto di design, può essere un accessorio da mettere, da appoggiare a un qualcosa che stiamo comprando sul momento, e quella cosa magari ci verrà stampata al momento. Potremmo scegliere il materiale, potremmo scegliere il colore. Come tutto questo sta cambiando il rapporto tra produzione e consumo? Va nell'orizzonte di una estrema semplificazione innanzitutto dei rapporti. Semplicemente per molti prodotti non sarà più necessaria la spedizione, perché la spedizione sarà semplicemente un trasferimento di file, quindi va anche nella direzione della sostenibilità. Dall'altro avvicina a delle dinamiche che tanto amiamo ma che sono dimenticate, che sono quelle dell'artigianato tradizionale, dell'artigiano del cuoio, dell'artigiano della pelle, dell'artigiano del vetro, che magari realizza per noi delle cose sul momento, assieme a noi magari. È la tecnologia che ci permette di riscoprire una relazione tra consumo e produzione molto simile a quello che succedeva nei secoli scorsi, diciamo, o che succede magari in società preindustriali, ma con una componente digitale che lo rende estremamente attuale. Paolo Ferrarini, grazie, alla prossima. Grazie a voi, arrivederci. Italian Factor. Chi ci ha seguito sabato scorso ha già riconosciuto lo stacco. Questo è il momento di Italian Factor. Essere avere promuove la ricerca dell'italianità come volano per la ripresa. Questa è la nostra sfida, il nostro talent, per così dire, grazie all'analisi e alla visione strategica di Francesco Morace, sociologo, fondatore di Future Concept Lab. Francesco, ben ritrovato. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Italian Factor lo abbiamo definito una sorta di acceleratore del Made in Italy. Oggi inizia il nostro percorso, Francesco, lo anticipiamo, un percorso fatto di virtù, fattori, elementi per attivare questo Italian Factor, oltre che i casi aziendali che lo riassumono. Francesco, da dove iniziamo? Io direi proprio di partire dall'intelligenza, che è una virtù che in Italia viene, credo, riconosciuta da tutti, sia da noi che da chi ci conosce da fuori, dall'estero. Bisogna capire che però l'intelligenza in Italia è sempre contestuale, cioè è legata ad un contesto, ad una dimensione concreta di vita. E c'è un'espressione italiana molto interessante che è intraducibile, che è fare mente locale, no? Cioè riuscire a capire quali sono le condizioni del luogo in cui ti trovi o della situazione in cui ti trovi. Questa è la base dell'intelligenza italiana. A livello di comunicazione, di prodotto, di relazione con il consumatore o di organizzazione all'interno delle aziende, da dove passa questa intelligenza? Ma passa da quello che un autore americano importante, che si chiama Malcolm Gladwell, ha definito il blink, cioè il il colpo d'occhio, l'intuizione. Gli americani non sono particolarmente bravi nel blink, invece gli italiani lo sono molto. Il vero problema è che poi spesso non riusciamo sul blink a costruire un vero progetto, quindi a avere una visione strategica, però tutta, diciamo, la forza delle aziende italiane, anche nel marketing, nella comunicazione, nella costruzione stessa del prodotto, passa attraverso questa capacità che quasi sempre l'imprenditore e poi il manager ha nell'immaginare qualcosa di nuovo, di innovativo. Quante idee geniali, Francesco, ritroviamo nella storia dei prodotti delle aziende italiane e poi magari vediamo riprodotte in forme meno intuitive, ma a livello commerciale potenti nel resto del mondo. Ecco, l'Italia deve ritrovare l'orgoglio di essere, come dire, la creatrice di questo tipo di intuizioni. Assolutamente, deve ritrovare l'orgoglio e in realtà l'Italian sounding, come è stato definito, cioè questo uso ad esempio di nomi italiani per prodotti che sono stranieri, va certamente combattuto anche in termini legali, ci mancherebbe, ma soprattutto combattuto con la nostra consapevolezza, cioè capire che abbiamo nelle nostre corde, diciamo nel nostro codice genetico, questa capacità che ci deriva da Leonardo da Vinci di essere ingegnosi e di essere innovativi. Molto spesso però poi non riusciamo a comunicarlo bene e anche a distribuirlo bene, c'è anche proprio un problema di comprensione commerciale della forza delle nostre idee. Francesco Moracci, grazie, a sabato prossimo. Grazie a voi. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere, potete riascoltarla e scaricarla dal nostro sito radio24.it, sezione programmi, potete riascoltarla anche dalla nostra pagina Facebook dove trovate i link, i video, tutte le segnalazioni di cui abbiamo parlato. A sabato prossimo, un saluto da Maria Luisa Pezzali.